Allora, buonasera a tutte e a tutti, e grazie alla Fondazione che ci ospita e che non ospita soltanto noi, ma questo progetto che è la Scuola delle Cose, la rivista dell'Associazione Liceum, quindi grazie a Gino Di Maggio ovviamente, e a Luigi Ballerini, a Giovanni Bonoghi dell'Associazione di Poesia, e Giancarlo Sammito e Laura Di Corcia. Io sono Marco Giovenale e siamo qui, come sapete, per presentare questo numero 19 della rivista La Scuola delle Cose, che si compone di 8 saggi di altrettante studiose e studiosi che cercano di circoscrivere quanto più possibile, per quanto si può fare, in uno spazio che comunque è molto ampio, perché il tabloid da una 4 diventa una 3, poi una 2, una 1, quindi diventa un foglio molto grande, per circoscrivere quella cosa bizzarra e strana che da qualche tempo si torna a chiamare scrittura di ricerca. In realtà l'espressione scrittura di ricerca o poesia di ricerca ha una lunga storia. Chi fosse interessato può trovare un saggio a firma di chi vi parla su uno dei numeri scorsi del Berry, che risale per certi aspetti addirittura alla tradizione della musique de recherche, quindi stiamo parlando degli anni 40 francesi. Quindi, però, negli ultimi 20-25 anni è successo qualcosa, alcune scritture si sono un po' coagulate intorno a dei nuclei, diciamo così, più o meno forti, e a soprattutto una serie di opportunità date dalla rete, che ha dato modo appunto ad alcune scritture di conoscersi, di sapere ciascuna dell'altra, e stiamo parlando di scritture non soltanto italiane, ma anche e fortemente di tradizione anglofona e francofona. E dirò brevemente, prima di lasciare la parola a Luigi Ballerini a Laura Di Corcia, semplicemente faccio l'indice, volendo ovviamente, non solo la richiesta, ma insomma, se lo riteniamo opportuno mi direte anche voi, dirò, posso dire qualcosa anche dei singoli saggi. Si incontrano su questo numero le voci di Gianluca Picconi, a cui è demandato il compito di scrivere un saggio, diciamo così, di inquadramento generale della questione della scrittura e ricerca appunto in quest'ultimo quarto di secolo, di Massimiliano Manganelli, che si concentra più sulle procedure che sono state messe in atto dal Googlism ad altre ancora appunto in questo stesso turno di tempo. Luigi Magno, che prende a esempio 5 autori francesi per dar conto di cosa è stata, di cosa è la sperimentazione in ambito francofono. Chiara Portesine, che si dedica in particolare alla figura di Corrado Costa e a ciò che l'opera di Corrado Costa ha significato e significa per alcuni autori contemporanei. Renata Morresi, che si occupa da americanista qual è, della language poetry, e quindi diciamo, si interessa soprattutto dell'aspetto delle traduzioni che in italiano sono comparse di autori di questa corrente poetica. Chiara Serani invece tocca il tema quanto mai importante, presente e estremamente ricco, per cui anche il suo intervento non può che essere una sintesi, un po' quella di tutti, della intermedialità e quindi dei rapporti e degli intrecci e delle a volte sovrapposizioni di codici tra la letteratura e le altre arti. Luigi Ballerini ci dirà lui stesso e parlerà lui stesso, ci introduce a un'idea di poesia per come può essere fatta da questo momento in avanti, ma in realtà continuando una tradizione che trova nello scarto linguistico e nella indagine conoscitiva che è specifica di una certa idea di fare poesia un centro nodale, qualcosa che comunque va perseguito anche per i prossimi, diciamo, decenni. Daniele Poletti invece conclude il tabloid con un saggio molto lungo, addirittura più di 4 colonne, in cui con un'introduzione di carattere, diciamo, politico configura una, diciamo, altra modalità della ricerca letteraria che lui chiama scrittura complessa. Scritture complesse sono qualche cosa che si affiancano, si sovrappongono, a volte si contrappongono all'idea che lui promuove di ricerca. quindi scrittura di ricerca è un'espressione che a lui piace meno. Ci siamo trovati a confrontarci anche recentemente, abbastanza recentemente, 3 anni fa, in un'occasione organizzata proprio da Luigi Ballerini a New York, su queste due edizioni possibili della ricerca letteraria contemporanea, quindi scritture complesse, scritture di ricerca. E in realtà poi, in verità, ci siamo resi conto, almeno forse è l'impressione che probabilmente però condividiamo, che le analogie sono molto più finte delle differenze, anche se comunque le differenze sono importanti, e proprio in virtù dell'importanza delle differenze, personalmente ho fortemente voluto la presenza del saggio di Daniele Poletti a concludere e fare da quarta di copertina, se vogliamo, idealmente, della rivista. Quindi, ringraziando ancora chi ci ospita, passo la parola a chi è anche appunto responsabile dell'iniziativa in qualche maniera, che è lo stesso Luigi Ballerini. Faccio prima io della Laura, va bene, d'accordo, grazie. Dunque, sì, in fondo questa idea della scrittura, anzi della poesia di ricerca, è nata da un mio errore, perché io pensavo che fosse un'espressione abbastanza recente, finché ho incontrato Marco Giovenale che mi ha detto svegliati, è una roba che c'è lì dagli anni 30, eccetera, eccetera. Infatti, fatta ammenda, ho detto, beh, allora scrivi tu, saggio sulla storia della dicitura, della frase poesia di ricerca, cosa che poi hai fatto e che verrà pubblicata recentemente. Da questo è nato poi un convegno, il Fagiano alla New York University 2 o 3 anni fa, di cui sono usciti gli atti in questi giorni, in cui si è dibattuto sul valore della definizione di poesia di ricerca e in realtà anche la differenza proposta da Poletti, appunto, che vuole scritture complesse, ma come diceva giustamente Marco, ci sono più affinità che discorde, insomma. Ma comunque è interessante dibattersi con Poletti, mi dispiace che non sia qui perché è una persona quanto a dibattito da soddisfazione. Ecco, io quando penso alla poesia di ricerca la inquadro in una storia, in una tradizione che secondo me torna indietro quantomeno a Leopardi. Adesso vi direte, vabbè, facciamo dell'avanguardia a partire da Leopardi. Sì, l'avevano fatta già i Novissimi, no? Alfredo Giuliani nella famosa antologia dei Novissimi parte con una citazione da Giuliani e da Leopardi, e dice che la poesia, quando è contemporanea e può essere solo contemporanea, produce l'accrescimento della vitalità dei lettori. Questa frase viene poi commentata in vario modo, ma si dà il caso che venga da quella che è la più grande opera di Leopardi, cioè lo Zibaldone, e dentro lo Zibaldone ci sono delle frasi veramente terremotanti. La prima che viene in mente è che, secondo Leopardi, tutto si è perfezionato dai tempi di Omero, tranne la poesia. Una frase che, lasciata lì così, dà delle preoccupazioni, ma che poi in realtà Leopardi spiega in seguito. E ci dice che la poesia non può essere perfezionata, nel senso che già era perfetta ai tempi di Omero. Tutto può essere perfezionato, ma con Omero ha già raggiunto il massimo, e quindi tutto quello che la poesia può fare è cercare di raggiungere quello che Omero era riuscito a fare. Dice che in sostanza la poesia è al massimo quando inizia. Questo vuol dire che poeti come Omero, che Dante in qualche misura, hanno avuto la fortuna di avere un linguaggio non stabilito, non fissato da codici, dizionari, lessicografie e via dicendo. Cioè, hanno avuto la fortuna di avere in mano un linguaggio in ebollizione. Cioè, sono loro quelli che hanno in qualche modo codificato il linguaggio, ma partendo da una base assolutamente mobile, assolutamente fluida. Quando noi pensiamo al termine vago, che Leopardi, tutti noi abbiamo sofferto nelle scuole l'idea che il vago volesse dire non preciso, in realtà vuol dire vagante, non vuol dire non preciso, vuol dire che si muove, vuol dire che si agita, vuol dire che va a spasso. Quindi è il vagare, non è il vago. Ecco, allora l'idea è quella di mettersi in una condizione di cercare, a qualunque momento uno scriva poesia, secondo Leopardi, ma opinione secondo me assai condivisibile, deve mettersi nelle condizioni o cercare di mettersi nelle condizioni in cui si era trovato fortunatamente la poesia agli inizi. Allora, questo si può fare in diversi modi. Naturalmente io allora, quando mi ero fissato su quest'idea, ho pensato che la poesia di ricerca potesse dirsi poesia radicale. Radicale nel senso della radice, oltre che radicale in senso sociopolitico. Quindi che avesse chiunque scriva poesia e non usi il linguaggio della poesia a fini confessionalistici, ma usi la propria esperienza per motivare il linguaggio della poesia, e quindi rovesciando completamente la prospettiva, adisce a un linguaggio radicale, che essendo radicale, cioè essendo fissato nella potenzialità radicale del linguaggio, è a sua volta anche radicale nel messaggio che consegna. Questo comporta naturalmente una gran fatica da parte del lettore, il quale non ha alcuna occasione di riconoscersi. Purtroppo gran parte della poesia invece funziona, quella che si chiama poesia funziona all'incontrario, funziona che uno si cerca la propria consolazione, o comunque cerca in qualche modo una affinità con la persona che ha scritto. Qui, quando si parla quindi di poesia radicale o poesia di ricerca o scritture complesse, stiamo rovesciando completamente la prospettiva. Allora, devo dire che secondo me questa idea che rivitalizzazione del linguaggio, cioè la funzione sociale della poesia, può essere quella di rivitalizzare il linguaggio e trasferire il ruolo del lettore da ripetitore di linguaggio a creatore di linguaggio, dico il lettore, cioè il coautore della poesia, è una delle cose che ci auspichiamo da ormai da molti anni. Purtroppo non ci sono stati momenti di successo e anche momenti di ritirata in questo senso. Nessuno qui vuole negare la possibilità agli esseri umani di esprimersi tramite la poesia, però noi facciamo un altro mestiere. Cerchiamo di ottenere le informazioni che le esperienze ci danno per comunicare, cioè per mettere in comune un linguaggio rivitalizzato. Io penso che questo abbia una sua valenza politica, e mi piace concludere queste poche parole con due episodi, una frase e un episodio. Recentemente la Fondazione Leopardi ha pubblicato un libro in cui l'infinito è stato tradotto 100 volte in 100 lingue diverse. È un libro molto simpatico, anche perché graficamente si presenta anche in maniera diversa. Le lingue neolatine, anglosassone, vabbè, sono tutte con l'alfabeto latino, e poi ci sono cinese, swahili, arabo, ebraico e via dicendo. E devo dire che abbiamo presentato questo libro una sera, e con alcuni lettori che venivano da... Questo è successo a New York, quindi non mancavano lettori di tutte queste lingue, visto che ce ne sono 187 parlate a Manhattan. Quindi ed è stato molto divertente vedere come non solo queste persone che leggevano delle traduzioni già esistenti, ma hanno anche proposto delle loro traduzioni, quelli che riuscivano a capire l'italiano, e hanno anche affermato quante delle cose avevano trovato che nell'italiano non c'erano. Quindi era molto divertente vedere, a parte il suono bellissimo di certe lingue, ma era anche divertente vedere tutto quello che riuscivano a immettere in un testo che è infinito e che giustamente si presenta come apertissimo, no? Cioè uno dei gioielli della letteratura di tutto il mondo. Quindi è una poesia scritta in maniera vaga, in maniera vagante, in maniera aperta, e questa è la dimostrazione pratica che una lingua scritta in italiano può fare il giro del mondo e continuare a fruttificare in maniere inaspettate. E l'altra, invece, vorrei concludere con una sola frase, perché questo tipo di linguaggio a cui la poesia di ricerca punta è un linguaggio che si basa su una logica non aggressiva. La logica di questa poesia è una logica che non chiede nulla, che non chiede oggetti, che non chiede informazioni, che non aggredisce in sostanza, e quindi tutto sommato si può dire che la logica della poesia è l'unica modo di usare il linguaggio pacificamente. Bisognerebbe ricordarselo un po' spesso. Michael McGee, nel presentare una volta la lettura di Ray Di Palma, uno dei grandi interpreti della poesia di ricerca americano, disse: ricordiamoci che ogni giorno un sacco di gente muore per mancanza di poesia. Io penso che dovremmo rifletterci a lungo e cominciare a organizzare il nostro ascolto della poesia in quella direzione. Grazie. Grazie per l'invito. Allora, Luigi, ho ascoltato e ho letto l'intervento di Luigi che insomma, mi ha molto colpito, però devo dire che io sono partita al contrario, cioè l'ho intesa tutto al contrario questa rivista, nel senso che sono partita dal saggio di Poletti, perché mi è arrivata la versione online nel primo saggio, cioè il saggio di Luigi a metà e c'era Poletti, quindi ho capito adesso che l'ho letta tutto al contrario. L'avete intesa tutto al contrario, come diceva Renzo alla Zecca Garbini. No, appunto, si muore di mancanza di poesia, ma anche di poesie brutte. Io mi ricordo Lumelli, che appunto è scomparso da poco, che diceva che ogni volta che apriva un libro di poesia aveva paura di trovarsi di fronte all'ennesimo brutto libro di poesia. A parte questo inizio un po' così scherzoso, io sono contenta di poter riflettere e ragionare su questo numero di questa rivista, che ho trovato molto interessante. Appunto, sono partita dalla lettura del saggio di Poletti, lo trovo importante perché lui mette a fuoco qualcosa di necessario, secondo me, per la poesia oggi, la poesia contemporanea, cioè il bisogno di interrogarsi sul perché scriviamo poesia. E io credo che molta poesia contemporanea non si ponga proprio la questione, o se la ponga banalizzando i termini della questione in modo veramente, quindi per quanto mi riguarda l'esperienza che io ho con la poesia di ricerca, il lavoro di prosa in prosa, è l'esperienza di una lettrice curiosa e attenta di questa esperienza, appunto, di scrittura, perché mi sembra che questa stagione letteraria abbia, come dire, portato a tutta la poesia qualcosa di positivo. Poi è stata molto criticata, ma perché ha portato dell'ossigeno, una ventata di novità. Per esempio, una delle critiche che ho sentito è che in fondo la prosa poetica si faceva in Italia già da prima, certo, lo sappiamo, chiunque abbia studiato la storia della poesia lo sa, Barbaro, anche Campana, cioè prosa poetica. Però quello che mi sembra che emerga da questa rivista e venga, come dire, messo a punto dai messaggi di questa rivista sono le caratteristiche peculiari, no? Di questo movimento, che si discosta anche da quello che hanno fatto i nuovissimi, e chiaramente c'è una linea di continuità, è ovvio, per esempio nel superamento del soggettivismo e della lirica, anche se trovo che ci siano delle differenze nei risultati. Il discorso che fanno i nuovissimi è più ibrido, invece la lingua che mette in campo prosa e prosa è una lingua diversa, paratattica, per esempio, più strutturata, e si vedono le influenze francesi. Ben venga che ci sia stato questo arricchimento, no? Dei termini della questione. Senza questa esperienza noi non conosceremmo il lavoro di Tarkos, lavori importanti che comunque anche a chi poi segue altre linee, come magari è il caso di alcuni poeti della generazione, insomma, nati negli anni 80, sicuramente hanno ricevuto una lezione da questa esperienza. E poi il discorso politico, che mi sembrava fondamentale, nel superamento di quello che viene chiamata assertività, e che è una forma di, come dire, di manipolazione che il linguaggio fa, ma che fa il linguaggio lo fa. Il nostro linguaggio non è un linguaggio neutro, è un linguaggio connotato ideologicamente. Non è che l'ideologia è solo quella di sinistra, anche quella di destra è un'ideologia, e noi abbiamo un linguaggio, il nostro linguaggio comune è connotato ideologicamente dall'ideologia capitalistica dello sfruttamento e anche del, come dire, appropriarsi dei termini. un lavoro che cerca di spostarti portando dentro anche, come dire, le filosofie orientali, mi sembra, no? Che siano inglobate in questo lavoro. Soprattutto penso ad Alessandro Progin, nella seconda parte della sua produzione ingloba, no? La ricerca spirituale, a proposito di ricerca, la spiritualità è una ricerca in fondo, e appunto cerchi di decentrare, no? Il soggetto, ma in un'ottica politica, che è quella di non diventare padroni del discorso. Io ho studiato il teatro, scrivo, seguo il teatro, e questi discorsi il teatro li ha fatti prima della poesia, attraverso Brecht, attraverso tutto il lavoro degli anni 70 sull'abbattimento della quarta parete, che cos'è l'abbattimento della quarta parete, e soprattutto, lo diceva anche Sergio Nicoletti, questo tipo di lavoro poetico non presenta un prodotto finito, scusate il termine che è orribile, però non riesco a trovare altre parole, ma mette in scena, più che altro si concentra sul processo, la stessa cosa che fa il teatro, pensiamo al teatro che abbatte la quarta parete, che mette in scena un processo, mette, come dire, il dietro le quinte, fa vedere dietro le quinte, per rompere l'incanto, no? L'incanto ma nel senso brutto del termine, nel senso manipolatorio del termine, quello che è lo straniamento, insomma, di cui parlava Brecht. L'idea è proprio quella di rompere questo tipo di processo ipnotico per svegliare il lettore, il fruitore dell'opera d'arte. Quindi Grotowski voleva addirittura a un certo punto eliminare lo spettacolo finale, fare solo le prove, no? E mi sembra che siamo in quella direzione, di una continua, un processo che prende il posto del prodotto, proprio per eliminare, come dice, i confini ben perimetrati del prodotto artistico di tipo borghese, no? Allora, è questo, credo che sia. Quindi, secondo me è un'operazione importantissima su cui occorre ragionare, anche in seno a una lirica che si voglia, insomma, spostare un attimo dai parametri della tradizione, voglia problematizzare, ecco, scritture della complessità, ma anche della problematicità, potremmo dire. C'era Maiorino, parlava di dittatura dell'ignoranza e di complessità di discorsi da fatti, ecco. E anche è una poesia che lavora nel margine, nel terzo paesaggio. Il terzo paesaggio è una definizione che Gilles Clément ha dato a tutta una serie di spazi non, diciamo, toccati dalla volontà dell'essere umano di mettere ordine, di dare, di creare sistema. Mi sembra che si possa parlare anche in questo caso di una poesia del terzo paesaggio, o una post-poesia del terzo paesaggio, quindi dove non c'è la mano, o si cerca di limitare il più possibile questo tentativo di riportare le cose a un perimetro, a un rettangolo, qualcosa di usuale, che ci conforta, che ci consola, come diceva prima Luigi, e di interrogarci. Quindi io adesso mi chiedo come queste esperienze andranno avanti nel momento storico che stiamo vivendo, perché stiamo vivendo un momento storico molto diverso da quello che caratterizzava, insomma, il nascere di questa esperienza. Adesso siamo praticamente nella terza guerra mondiale e c'è un bisogno anche di prendere la parola in modo, con una responsabilità etica, proprio dal punto di vista politico. Quindi vedremo che cosa la poesia potrà proporre da questo punto di vista. Spero che non ci sia, come dire, un tornare, come dire, nell'interiorità per evitare il confronto con un reale così minaccioso. No? Questo forse potrebbe essere, come dire, una domanda che ci facciamo in questo momento e cerchiamo di capire quali sono i termini del discorso. Io ho finito, sono stata breve, passo la parola a Gianmarco Sanchez. Grazie Gianmarco per quello che hai fatto, per come hai fatto tutto, e hai anche toccato, no, gli argomenti fondamentali, i contenuti essenziali. ti ha detto, mi sento vicino fra tutti, in modo particolare a Chiara Serani, che ha parlato di intermedialità, forse per affinità di ambiti di ricerca, e poi ha messo giù dei canoni, no? Come Luigi, no? ha fondato delle ragioni, no? E naturalmente la proposizione proposta di Luigi, che poi il professor di prendere di lavoro, di facciamo qualcosa ancora, no? Affrontando il momento, è essenziale. Giovanni Bologna e io ci chiediamo questi giorni, ce lo chiedevamo ieri a cena insieme anche con Luigi, cosa fare nei nostri incontri, nella prospettiva futura di continuare a proporre poesia, non quanto utile necessariamente, quanto inutile è, se volete, ma inutile nel senso più alto politico della possibilità semantica. E la ricerca in poesia ha ancora delle cose forti da dire o basta così? O il caso di dirsi è andata, è stato un episodio di ricerca, di grande entusiasmo, di forti di energie molto molto interessanti, eccetera, ma cosa farne? Andiamo avanti. Il problema è che anche lì, Luigi toccava prima, del non prendere per il bavero il prossimo, anche per spiegargli come è messa la vita e cosa si fa nella vita. Lezione che viene dappertutto, no? Dall'intermedialità in senso lato, no? E che dobbiamo, cui dobbiamo combattere tutti i giorni. Ecco, non prendere per il bavero l'altro per spiegargli come si fa la politica, cos'è la vita civile, cosa sono le relazioni, eccetera, eccetera. Cosa significa emozionarsi, tutto sommato, attraverso il testo? Perché Luigi Ballerini parla anche di questo delle volte. Mi piacerebbe capire meglio cosa intenda, perché è difficile emozionarsi con i testi poetici e anche con i tuoi, permetto di dire, non è che mi emoziono facilmente con i tuoi testi, però mi prendono, però la ricerca dello svestirsi di linguaggio per ritornare a un linguaggio possibile, ecco, il ritorno a Leopardi, ma anche di più, appunto, anche Omero, perché no? Il ritorno ai classici, la rilettura dei classici per una reinvenzione del linguaggio attraverso la poesia. Bisogna fare qualcosa, bisogna ricominciare a pensare al pubblico, grazie per essere qui, bisogna ricominciare a pensare a cosa portiamo in giro, a quanto davvero inutile possa essere. E questa è la mia idea. E quindi interroghiamoci intanto per cominciare, poniamo quesiti, come si dice normalmente, anziché risposte tanto. Cominciare, ma se si stabilisce un asse Ballerini Leopardi, perché non l'asse, se sentite come è significante Pagliarani con esercizi platonici nel frammento undicesimo, per esempio, che è Pagliarani, no, che torna a Platone. Ecco il dono secondo tradizione. Tutto ciò che diciamo essere consta d'uno e di molti, e in sé contiene un elemento determinante e una indeterminazione. E il Pagliarani, 1985, lo probabilmente ci lavorava negli anni già un po' prima, in questione, leggendo gli esercizi platonici, e poi un altro esercizio platonico che continua a leggere, no, per altre ragioni, così io. Ma è il sedicesimo. Ma tuttavia chi desidera qualche cosa, ma il corpo è impossibile. In quell'istante è in condizione di vuoto. L'indagine dice: non vi è desiderio che provenga dal corpo, perché il desiderio dimostra sempre un conato contrario alle condizioni attuali del corpo. Non è facile, bisogna tornarci, ma molto interessante, perché riprende la cama anche, adesso vengono a parlare della cama, è diventato quasi una banalità, ma è interessante invece l'idea del vuoto, del desiderio, e dove andiamo, cosa desideriamo? Ma visto che Chiara Serani riprende anche Bernstein, questi giorni ha affascinato sia le donne Bonoldi che me per un libro di cui Laura ricorda, un libro che si farà in corso d'opera. Abbiamo perso fra altri autori, fra autori americani e milanesi. Vi leggo, thank you for, ma non tutta perché è lunghina, thank you for saying thank you, è un inglese super basico, quindi leggo qualche riga e poi sono versi così, no? Mozzati, e che poi il libro è tradotto da quell'altra parte, all'incontrario, che in italiano, quindi comincio in inglese e vi leggo una decina di versi e mistichi in italiano. This is a totally accessible poem. There is nothing in this poem that is in any way difficult to understand. All the words are simple and to the point. There are no new concepts, no theories, no ideas to confuse you. This poem has no intellectual pretensions. It is purely emotional. E così via. Da quell'altra parte, alla pagina 50, grazie di aver detto grazie. Questa poesia è del tutto accessibile. Non c'è nulla in questa poesia che presenti qualche difficoltà di comprensione. Ogni parola è semplice e pertinente. Non propone nuovi concetti, né teorie, né idee che possano confondervi. Questa poesia non ha pretese intellettuali. È puramente emotiva. E così via, va avanti per la pagina. Va bene, sono esempi. Cosa facciamo? Facciamo e riprendiamo tutto da capo. Tra l'altro questa è una delle poesie di Bernstein che è più legata alla sua prosa, forse più di uno tra voi l'avrà letta, che è stata tradotta su Berry e poi anche proposta, tradotta da Mille Graffi, che si intitola Recantori. Francesca, qui diciamo che è un Verri del 22 questo volume. Ecco, il Recantorium è del 2013, o almeno noi proponemmo la traduzione nel 2013, ma in realtà è leggermente precedente, ed è una prosa divertentissima in cui lui non fa altro che scusarsi di aver diciamo favorito i poeti complessi, i poeti difficili, i poeti di ricerca. Io abiuro, io rifiuto, io condanno, io, come un inginocchiarsi infinito e testualmente divertentissimo di fronte a un qualche Torquemada della lirica, ed è parte del discorso di ironia sulla scrittura contemporanea anche statunitense che Bernstein ha portato avanti sostanzialmente per tutta la sua vita. Quindi, diciamo, così come di Pagliarani si potrebbero citare molte pagine, per esempio quelle da Lutero, in cui il corpo fa una sua esplosiva comparsa sulla scena senza assolutamente nessun tipo di sottotesto. Cioè non c'è nessuna allegoria, non c'è nessuna simbolicità, non c'è nessuna emotività, c'è semplicemente il corpo che fa le sue funzioni. E questo in anni in cui in Francia, grosso modo, succedevano le stesse cose. Però erano gli stessi anni in cui l'Italia si immergeva nella sua, come dire, nel suo riflusso, nel suo piccolo lirico. E io, non soggetto, ma io lirico. Non voglio prendermi troppo spazio, non so se possiamo... No, prima di tutto, mi pare che da tutte queste osservazioni emerga una cosa molto semplice, che non esiste poesia di ricerca senza un coinvolgimento attrezzato di chi la legge. E questo è un problema grosso, perché molto spesso il lettore di poesia non è attrezzato a leggerla. Bisognerebbe avere un po' di umiltà e imparare a leggere le poesie. e soprattutto le poesie che non hanno una referenzialità immediata e che quindi si basano semplicemente su sui rapporti che le parole hanno tra di loro in un testo, se uno non gode di indagare qual è il rapporto che le parole hanno tra di loro in un testo, non capisce, in altre parole, la poesia cosa vuol dire è una domanda proibita, ma come è fatta è la domanda giusta, no? Allora, per fare un esempio molto semplice, in una poesia di Ungaretti, Frammenti, si parla della solita esperienza che aveva Ungaretti da vecchio, e cioè che non riusciva più ad amare come quando era giovane. Bella scoperta, eh? Dico però, dice semplicemente, l'amore non è più quella tempesta che tra vizi e stravizi vi teneva sveglio, eccetera, eccetera. Poi la frase, questa prima strofa finisce con una virgola, c'è uno spazio bianco, e poi c'è un'altra terzina che continua, e ricordatevi che la prima frase comincia con l'amore non è più, eh? Quindi il soggetto della proposizione è l'amore. La seconda strofa dice, trema da un faro, oppure balugina, ecco il verbo che non mi veniva in mente, balugina da un faro verso cui va tranquillo il vecchio capitano. Allora, i casi qui sono due, c'è una virgola, c'è uno spazio, che uno può anche ignorare, ma se ignora questa separazione corre il rischio di dire che il soggetto della prima quartina corrisponde a quello della seconda. L'amore non è più, l'amore balugina. E commette un grave errore. Perché commette un grave errore? Perché dire due volte la stessa cosa non va bene, bastava dirla una volta, poi lo sanno tutti che a 80 anni non è come a 30, no? Ma se noi cambiamo soggetto e balugina diventa il verbo di vecchio capitano che sta in fondo alla terzina, balugina da un paro verso cui va tranquillo il vecchio capitano, cioè se noi accettiamo questa prolessi che in Ungaretti è frequentissima, cioè come in tedesco del resto, no? Quando il soggetto è sempre in fondo alla proposizione, beh, allora le cose cambiano radicalmente, perché non si parla più dell'amore che non è più come eccetera eccetera, ma si parla di un vecchio capitano che balugina. I vecchi capitani che baluginano sono difficili da trovare, eh? Cioè il DNA che uno balugini essendo un vecchio capitano non è male, no? Mi pare una bella trovata. E poi va balugina da un faro verso cui va, ma voi ve lo immaginate andare verso un posto da cui si viene? Non è facile, no? Quindi questo rimette in circolazione tutto il discorso. Ecco, questo tipo di esame analitico, semplice, banale, io credo che sia utile alla... Naturalmente non tutti scrivono delle belle poesie come Ungaretti, vabbè, però il principio è quello che uno deve sbattere con l'naso dentro questi testi e non chiedersi mai cosa vuol dire, ma godersi invece dell'esperienza che lo ha in qualche modo scosso, no? Perché esiste una verità di fatti. Le cose succedono, il bicchiere o è pieno o è vuoto, vabbè che alcuni dicono che è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma in generale o è pieno o è vuoto. Poi dipende da come lo dico, per trarre non più una verità materiale ma una verità storica, diceva Freud, no? Cioè il modo in cui lo racconto mi permette di capire cosa c'è sotto, ma la verità storica per Freud sono terapeutiche, hanno bisogno di... uno sta male e cerca la verità storica e poi si sente benissimo. Dicono, ma la verità storica è soltanto un passaggio, quella che ce n'è un'altra dopo, che è la verità poetica, la quale non cura proprio niente, anzi a volte ti mette in crisi, ma ti eccita però, ma produce emozioni. Infatti, cosa diceva la poesia di Pagliarani che tu hai letto un attimo fa? Produce un accrescimento dell'esperienza quotidiana che è soltanto attraverso il modo in cui si gestisce il linguaggio che viene a galla. Naturalmente noi parliamo di linguaggio verbale, si può fare anche con il linguaggio artistico, cioè ci sono molti linguaggi, ma visto che noi parliamo di poesia, parliamo di parole, no? Però se noi non cerchiamo questa terza verità, questa verità poetica, questa logica poetica, allora non abbiamo letto. A me è capitato una volta, quasi vengo ucciso da uno Io stavo leggendo un libro, eravamo tutti e due chiusi dentro il sedile di un aereo e io stavo leggendo un libro e lui mi ha detto: io non ho mai finito un libro. Ah, dico, peccato, dico, ma come mai? Dice, perché non riuscivo mai, io ho come si chiama? Attention Deficit Disorder. No? Dico, ma no, dico, è che lei non sa leggere, non l'avessi mai detto. Anche perché non potevo scappare perché c'era la turbolenza, quindi... E questo dice, come io ho la laurea, ho capito, dico, guardi, mi scusi, ma hai mai visto perché questo aggettivo sta con questo... Ah, dice, non ci avevo mai pensato, ecco, vedi che lei non sa leggere, dico, certo, questo è il punto, leggere la poesia non è leggere il giornale, è un altro modo di leggere, no? E se noi non facciamo questo, e si fa fatica, però vi assicuro che le soddisfazioni sono alte. Grazie. Se ci sono interventi dal pubblico sono assolutamente benvenuti, l'unica cosa che chiedo chi vuole intervenire magari se viene qui perché stiamo registrando a futura memoria appunto, quindi il microfono può essere utile. Di solito questa è la domanda glaciale di cui nessuno si muove tutto. Però forse qualche cosa, possiamo aspettare qualche minuto? Sì, anche. Devo dire che sono molto contento di vedere che la persona che mi ha detto che doveva scappare è rimasta fino adesso. Questo, ogni tanto il successo di queste cose sta nel fatto che la gente non se ne va, no? Cioè, ma sono rimasti fino alla fine, quindi erano tutti contenti. No, l'ho detto, però insomma sono rimasti, quindi... Ma io non so se ci sono delle domande da fare oppure no. Ecco, sì, però guardi... Vabbè, no, ma porta lì, portiamo il microfono. Allora, sentito parlare di poesia astratta, potete interrompere anche e rimetterla in gioco, non so cosa avete letto. Poesia astratta? Poesia astratta. Okay. Forse... Ho un amico che ha scritto e ho preso anche un libro, l'ho solo guardato. Però parla di poesia astratta. O scrittura asemica? Forse? No, poesia astratta. Lui usa questo termine. Poesia astratta. Io devo ancora capire meglio e vorrei poterla interrompirla con il vostro concetto di scrittura complessa, oppure scrittura radicale, oppure poesia di ricerca, che a me interessa molto. Io, chi è che ha inventato la parola? Il termine vorrebbe la pena di guardare il schermo. Non me lo ricordo il nome. Io la cosa che mi è venuta in mente, per quello che facevo la domanda era, e se ne accenna nel tabloid, l'asemic writing, cioè la scrittura asemica. Che cos'è la scrittura asemica? Non ha niente a che fare con la scrittura lineare, non ha niente a che fare con la scrittura tipografica, perché è un tipo di scrittura che è totalmente grafica, cioè è mima la, diciamo, la leggibilità di una grafia, non essendo appartenente a nessun tipo di linguaggio o di lingua storica definita. Quindi diciamo una sua, e si trova l'incrocio tra l'arte astratta, l'arte in generale e la scrittura. Cioè uno crede di vedere dei caratteri, ma in realtà sta guardando dei glifi che non significano assolutamente nulla, che è un po' lo stesso effetto che ci fa la bellezza e l'eleganza dei caratteri cinesi o giapponesi, se non conosciamo il cinese o giapponese, che apprezziamo moltissimo non essendo in grado di capirci un H, se appunto non siamo dei sinologi o degli studiosi in quell'ambito. Quindi se parliamo di quello, ecco, c'è quest'area qui. Ecco, ecco, allora diciamo lì siamo su un versante un po' diverso. Simbologia. Ecco, allora se siamo in quell'ambito lì, siamo in un ambito che dal punto di vista, diciamo, storico nasce come espressione, asemic writing, alla fine degli anni 90, nel 97, due autori, in corrispondenza tra loro, Jim Leftwich e John Byrum, si scrivono e Leftwich manda a Byrum un testo lineare, quindi assolutamente decifrabile dal punto di vista geometrico, quasi alfabetico, però geometrico alfabetico. Ecco, cerco il nome. No, adesso sto ritornando però alle origini, perché poi dopo la cosa cambia in maniera molto interessante, ma alle origini l'espressione che usa Byron nel rispondere a Leftwich, che gli manda questo testo estremamente complesso, dove addirittura si scambiano le sillabe, le vocali slittano verso le consonanti in maniera che un anglofono a malapena decifra, al margine di una risposta Byron scrive: se tu continui su questa strada arriverai a fare della poesia, della scrittura asemica. Asemic in inglese, già dall'Ottocento e soprattutto con studi novecenteschi, individuava una difficoltà di carattere, una patologia vera e propria, quindi una difficoltà neurologica nell'articolazione, anche attraverso gesti, non soltanto dal punto di vista linguistico, delle proprie emozioni, quindi l'impossibilità in qualche maniera di raggiungere lo statuto di segno. Okay? Ed è uno dei motivi per cui uno dei grandi poeti della language poetry, come Ron Silliman, all'inizio era abbastanza sospettoso nel confronto dell'uso di questa espressione per individuare questo tipo di scrittura. In realtà noi abbiamo tracce dell'uso dell'espressione asemantico, quindi scrittura asemantica, già in Italia negli anni 70, per esempio riferita a un'artista straordinaria, purtroppo scomparsa neanche da molto tempo, come Irma Blank, per esempio, che ha vissuto lungamente qui a Milano, pur essendo lei di origini tedesche, ha vissuto anche in Sicilia. Oppure Bianca Menna, ovvero Tommaso Binga, nel 1974, entrambe facevano una mostra, una a Milano e un'altra a Roma, e soprattutto adesso sto pensando a un saggio di Gillo Dorfles che chiama proprio scrittura asemantica le opere di Irma Blank in quella circostanza. Ma più recentemente uno studioso che si chiama Luigi Di Cicco ha individuato sempre negli scritti di Gillo Dorfles questa stessa espressione, quindi asemantica, riferito a opere degli anni addirittura 60, 1960 in particolare, 1958. Per esempio abbiamo tutti presenti i pettini di Capogrossi. Ecco, quel tipo di semicità veniva già riportata da un precocissimo, nella sua intelligenza del reale artistico dei suoi anni, Gillo Dorfles, a un discorso di asemanticità. L'espressione scrittura semica, scrittura semantica ha oscillato un po' per un periodo e poi si è fissata in italiano come scrittura semica e in inglese accettata ormai unanimemente come semic writing, tant'è vero che i dizionari più recenti, se voi consultate in rete, riportano entrambe le definizioni, quindi la definizione della patologia, semic come incapacità di esprimersi, ma anche asemic come diciamo, movimento artistico. Molte persone nel gruppo Facebook più diffuso, più frequentato, scusate, oltre 35.000 aderenti di asemic writing, che quindi sono persone che fanno questi disegni geometrici, questi glifi, queste scritture che non hanno nessun significato, che però appunto fanno, diciamo, da ponte tra scrittura e arte, molte di queste persone entrano nel gruppo e dicono: ma io facevo queste cose già dal 1983, io facevo queste cose già dal 1980. Quindi in realtà è una linea che veramente percorre buona parte della seconda metà del Novecento in maniera più o meno sotterranea, più o meno inconscia. E che cos'è che ha fatto sorgere la coscienza del fatto che queste persone in maniera sparsa e diversa poi tutto il mondo facevano la stessa cosa? Internet. Perché nel 1997, 98, 99, 2000 si cominciano a diffondere in rete PDF, siti, blog che diffondono questo tipo di materiali e di conseguenza questo diventa un po' un linguaggio, non essendo paradossalmente un linguaggio, che unifica anche persone completamente distanti tra loro anche dal punto di vista linguistico, perché uno svedese, un olandese, un giapponese parlano lo stesso linguaggio perché è un linguaggio che non ha nessun significato, ma che ha una sua sensatezza grafica, come mi è capitato di dire, produce senso senza attenersi a un significato. Non so se ho risposto, però mi sembrava questo un po' l'ambito di una scrittura, diciamo così. Paul Klee nel 1934 parla proprio di abstracte Schrift, quindi una scrittura astratta, ecco, in una sua diciamo così, una serie di tracce che sembrano appunto una scrittura fatta a mano, che però non significa assolutamente nulla. Siamo appunto negli anni 30 del Novecento. Grazie. Grazie a voi. Beh, è incredibile come Marco Giovenale che... Attenzione, non c'è un sacco il tavolo, sotto. No, se registrate, tagli il microfono perché vorrei che passasse un po' la storia a questo contributo. È incredibile come Marco Giovenale, che qualcuno superficialmente o maliziosamente potrebbe giudicare un Lazzarone che fa scrivere anche... No, ma in senso buono. Un altro Bonoli, in realtà uno schiaffa una domandina così, parte, inquadra e fa una lezione come se mi fosse preparato per, no, complimenti vivissimi, come si dice, perché... E quella è, le lezioni di Giovenale sono molto importanti. Aspetta, passa sotto. È Le lezioni di Giovenale sono sempre importanti, perché io stesso, quando abbiamo pensavamo noi di aver inventato la parola, cioè Beppe Cavatorta e io abbiamo inventato la parola poesia di ricerca, e dico, ma oh, siete fuori di testa, poesia di ricerca, e lì è cominciato una collaborazione molto... Noi siamo diventati i suoi discepoli, ci ha fatto delle storie incredibili. Cioè. Certo che tra poesia semica e poesia semantica, ci sono poi varie gradazioni, esatto, no? Ci sono decine di pittori che scrivono sulle tele, Magda Lo Mussio, Gastone Novelli, Emilio Villa, che all'incontrario, che passa dalla letteratura al visuale, a volte è asemantico e a volte è semantico. Quindi a volte acquistano valori semantici delle macchie e delle parole diventano asemantiche, cioè è un putiferio delizioso, però un putiferio, voglio dire, non è che uno deve buttarsi e nuotare in sostanza, perché mi pare che non si tratta mai di sapere di arrivare dall'altra parte, in sostanza, si tratta di godere del nuoto, no? Cioè, voglio dire, e quindi questo però secondo me è un'esperienza a cui noi siamo disabituati, ecco perché la poesia può, questo tipo di poesia può avere una funzione importante, perché normalmente noi tendiamo a ottenere qualcosa nella vita di tutti, diciamo, il nostro cervello è ormai condizionato all'idea che deve ottenere, se apre bocca deve avere un'informazione, un oggetto, quello che vuole. Invece il linguaggio non è nato per questo, almeno suppongo, non è nato per delle necessità, dicevano nel Settecento i grandi illuministi, è nato per il desiderio, non per la necessità. E quindi sì, poi non lo usiamo per la necessità, ma quello è un uso che viene dopo, però, cioè, no? il vero linguaggio, quello che fa di noi degli esseri umani, è quello che ci permette di rispondere a una domanda con un'altra domanda, insomma, no? Non quello che ci dà delle risposte che ci mettono a tacere o che soddisfano qualche cosa. Infatti il soddisfare, il basta, il satis della poesia di ricerca non c'è, non c'è fine, non c'è. Però bisogna essere in grado di godere di questo, avere questa jouissance, non so, linguistica, che ci permette di sentirci esseri umani, non degli esseri dei consumatori, quello è un altro discorso. Non che non bisogna consumare, perché a un certo punto mangiare bene bisogna, no? Ma si può essere un essere umano senza consumare, anzi, quello è il necessario. E io credo che la poesia, come la vogliamo chiamare a questo punto, non lo so più, sia un buon esercizio. Una buona esperienza per questo tipo di emozioni. Altre domande? Mi è venuta così una piccola provocazione, che che non arriva da me, arriva da una abbastanza famosa artista del secolo scorso, John Cage. Chi è, scusa? John Cage. Che sosteneva la necessità di andare verso una ricerca non soltanto dell'eliminazione della sintassi in musica, quindi l'eliminazione di tutto ciò che può avere a che fare con ritmo, melodia, eccetera, eccetera, armonia, dicendo, ma anche con l'eliminazione della sintassi in poesia. E mi sono sempre chiesto se questa provocazione era semplicemente, come dire, una replica di una sorta di funzione mentale. Tu pensi la sintassi musicale organizzata in un certo modo e a un certo punto, non so, togli la tonalità, togli la cacofonia, togli tutto quello che si può togliere, ma rimane comunque il suono. Nella poesia pare la stessa cosa, cioè, nel senso, la sintassi è parte fondativa, costitutiva. C'è un nome, c'è un verbo, non hanno la stessa funzione. E quindi è qualcos'altro che probabilmente va scardinato. Così è una suggestione che mi butto lì, chi vuole. C'è già una risposta. Ma poi posso mettere anche. Scusa, sintassi è già un termine un po' ampio, perché esistono anche ipotassi, per esempio, no? Cioè, voglio dire, ci sono esempi già nell'Ottocento, voglio dire, ma il grande maestro Ezra Pound ha scritto 116 cantos di ipotattici, no? Si possono fare collegamenti di tipo sensoriale. Tu puoi passare da una frase a un'altra semplicemente perché c'è lo stesso colore menzionato in entrambe le frasi. È un tipo di sintassi, è un tipo di ipotassi, dico, però il collegamento c'è, esiste una logica più che una sintassi. Certo che se noi pensiamo alla sintassi, quella tradizionale, quella per cui prima viene il soggetto, eccetera, eccetera, anche lì si può operare, tuttavia. Guarda, uno degli esempi qui è quello di Alessandro Broggi. Alessandro Broggi prendeva delle frasi perfettamente sintattiche, cambiava una o due parole e la sintassi era intatta, però il messaggio era completamente sballato, no? Cioè, beh, qui c'è Giovannetti che ce l'insegna queste cose, ma voglio dire, l'impossessarsi del linguaggio sdato, del linguaggio banale, in cui tu fai l'operazione di rivoluzionario, basta cambiare una parola, basta cambiare un verbo, e la sintassi rimane esattamente uguale ma completamente sballata. Anche i surrealisti avevano fatto questo, voglio dire. Quindi io non... La sintassi è un problema solo se diventa una camicia di forza, ma tu la puoi tranquillamente rispettare come paradigmaticamente, mentre sintagmaticamente la rovini, no? Cioè, però l'altra cosa è che puoi fare chiaramente delle ipotassi, delle paratassi e via dicendo, puoi collegare in tutte le maniere possibili e immaginabili. Libertà totale. Sì, poi arriviamo alle parole libertà, voglio dire, di cui Cage era al corrente, tra l'altro, no? Certo. Interessante è questo discorso sulla paratassi, perché mi sembra scardinare un principio biologico, no, che ci contraddistingue come esseri umani, del fatto che noi siamo organizzati in modo che ci sia un cervello al capo che presiede a tutte le funzioni, invece le piante, per esempio, hanno un cervello esteso, quindi sono paratattiche, se vogliamo. Certo. No? E in fondo torno anche alla questione delle filosofie orientali, della spiritualità orientale, quando ti dice appunto di uscire dalla mente, entrare nel corpo, quindi di spostare il centro, no? Di decentrare e di vivere con tutto il corpo, no? Certo. In certo modo da creare, come dire, un'intelligenza corporea, non solo cerebrale. Quindi mi sembra che in questo anche si possa, come dire, riflettere su questo tipo di scritture, che dobbiamo chiamare scritture, non solo poesie, perché hanno anche questo elemento che è molto presente per esempio nelle speculazioni che si stanno facendo in questi anni sul tema delle piante, perché noi abbiamo sempre pensato che l'essere umano, cioè prima l'essere umano, poi l'animale, poi le piante all'ultimo posto, invece in realtà si sta scoprendo che hanno delle forme di organizzazione molto intelligenti, molto sofisticate, forse più avanzate rispetto alla nostra. Perché noi tiri via il capo. Malgrado senza parola. Malgrado non si muovono anche, sono immobili, eppure proprio per questo hanno delle forme di organizzazione più come dire, diffuse. E mi sembra che questa scrittura vada in questa direzione. Mi chiedo anche, ma come mai nella letteratura c'è tutta questa reazione? Per esempio nell'arte questa reazione mi sembra che ci sia molto meno. C'è. Nel senso dell'avanguardia sulla la risposta è che siamo troppo, cioè al 99% noi il linguaggio non lo usiamo, cioè mentre l'arte non la usi per altro, il linguaggio lo usi per comprare il mele, lo usi per andare al cinema, lo usi per, e questo il 99% della nostra attività linguistica è mirata ad ottenere qualche cosa, no? Mentre qui dovremmo cercare di allargare un pochino quell'1% e godercelo un po' di più, dico, ma ci sono persone che riescono a farlo. Noi abbiamo in questi giorni parlato molto di Angelo Rumelli, dico Angelo Rumelli era uno di poeti che riusciva a parlare quasi così, scusami, sì, anche quando andava a comprare i carciofi, voglio dire, cioè era veramente straordinario, quindi mentre noi viviamo con un cervello dimidiato, no? Adesso faccio la poesia, ma guarda, sentire parlare Angelo quando guardiamo un pezzettino di Zola, era botanico, però parlava da poeta, insomma. Quindi il problema è che credo che la resistenza alla poesia sia il fatto che è una resistenza di abitudini linguistiche, siamo troppo abituati quasi al 100% a usarlo in un altro modo, contro la sua vera ragione di essere, tra l'altro. Ah, forse potremmo imparare anche dal cinema. Adesso passo subito la parola a Giorgio Mascitelli, che ringrazio di essere qui, perché mentre in poesia ci si aspetta che durante una lettura di testi magari un po' complessi, poi noi dobbiamo immaginare sempre tutta la poesia o la scrittura di ricerca come il Laborintus 1956, c'è anche il Pagliarani che scrive: contro le tradizioni umane non conosco esempio migliore del culo, non si lascia stringere, vuol farla da padrone e basta. Preso, no? E Pagliarani da Luteo, a proposito di colpo, e quindi c'è anche questo. Però spesso succede, c'è la lettura delle scritture di ricerca, ci può essere un autore particolarmente complesso, c'è l'ascoltatore che indignato se ne va. È successo in un'occasione alla Chiesa, all'Arte e Linguaggio, sì. Invitati da Luigi, venimmo noi della banda GAM, quindi GAMM.org, non ricordo sempre, e quindi Gerardo Portolotti, purtroppo non c'è più, il nostro amico Alessandro Broggi. Alessandro, Alessandro Broggi non c'è più, Michele Zaffarano e io, a metà della lettura di uno di noi, non ricordo esattamente, Antonio Riccardi si è alzato e se n'è andato. In linea di massima, dico perché dovremmo imparare dal cinema, perché ci sono dei film anche particolarmente complessi, pensiamo a alcuni film di spionaggio, alcuni film in cui diciamo ci sono dei fast forward e flashback abbastanza intrecciati, eccetera. A me, non so voi, ma a me non è mai capitato di vedere lo spettatore che si alza e se ne va indignato, aspetta di vedere la fine del film e poi mi dice. E quindi questa cosa qui secondo me dovrebbe essere un po' nella, diciamo, parte del training della lettura, che poi credo che sia sempre stata parte della cultura di chi comunque si avvicina al linguaggio, chiamiamolo poetico in generale, ma comunque diciamo come componente complesso. A proposito della sintassi, per esempio, una delle forme grandi, non soltanto dell'avanguardia, ma forse della letteratura in generale, è la forma elencativa. Uno dei testi che abbiamo proposto, quindi la sintattismo forse per eccellenza, perché è un elenco di nomi, uno dei testi che abbiamo proposto su Gamma come testo elettivamente sperimentale e interessantissimo e fantasmagorico per certi aspetti, è il catalogo delle navi di Omero, che elenca appunto tutte le navi che prendono parte alla vicenda. E credo che poco ci sia di più interessante e insieme sconvolgente dal punto di vista sintattico, quindi in qualche maniera forse in parti un po' meno centrali nel nostro DNA di lettori e autori, molte cose le sappiamo in fondo già, dobbiamo solo riconoscere e non fermarci alla prima impressione che magari ci farebbe alzare e uscire dal sala. Posso chiedere una cosa al pubblico? Aspetta, c'è Giorgio una domanda. Vieni Giorgio. La lancio lo stesso. A me sembra che è una cosa importante che ogni tanto ci ripete Luigi in occasioni appunto informali, e bisognerebbe, andando avanti a voler fare, no, proporre poesia, non rinunciare all'aspetto, direi, pedagogico in qualche senso. Cioè, no? Mi piacerebbe sapere cosa pensate. Sarebbe necessario prendere testi, cioè quello che Paolo Giovannetti fa, con il suo studente Hollywood, no? Il grammatico, cioè un professore, un docente, no? Si può dire un docente di poesia, o che a me capita di fare su Chaucer, con i miei studenti alla Brera, e andrebbe fatto, secondo voi, potete anche non rispondere. Aspetta che... Sì, ma non importa. Vieni più nel... Guarda, te lo passiamo. Ci siamo. Un minuto. Sto in piedi. Allora, volevo solo dire questa cosa. La differenza, secondo me, che c'è tra il mercato dell'arte, tra l'arte e la poesia, è nel mercato. Cioè, l'arte si è costituita, per questo che prevale l'avanguardia, come pezzi unici. Le grandi somme si muovono su singole opere oppure comunque su una produzione come l'Elitto, molto basse. La poesia, anche la poesia d'avanguardia, e tutta la letteratura, perché non è che cambi molto per la narrativa, invece ovviamente entra nella logica del libro, che è una produzione massificata. Però se voi notate, adesso che c'è un'operazione come quella di Bansky, che tende a fare questi disegni che poi vengono rivenduti sulle magliette, cioè di fatto una produzione estetica che imita la produzione di massa del libro, e se notate, non a caso credo che Bansky venga dall'industria discografica, no? Perché pare che sia comunque legato, insomma, a uno dei vecchi, al vecchio cantante dei Massive Attack, quindi gente così, probabilmente assisteremo a una nuova ondata anche nell'arte di recupero dello stereotipo, no? Questo è il problema, mentre comunque l'operazione artistica si costituisce, poi emergeva in tanti modi sempre dello scatola nova, scatola nuova che può essere declinato in 100.000 modi diversi, come diceva Luigi, però è questo. Però questa è secondo me la grande differenza. Qua loro sono, questa galleria propone pezzi unici. Questo il pezzo unico deve essere inconfondibile. La letteratura è stata costituita capitalisticamente come merce che deve essere invece riprodotta. E infatti, secondo me, è abbastanza interessante l'emergere di Bansky. Grazie Giorgio. Beh, io credo che possiamo forse chiudere. Non so se ci sono altre domande o proposte. O risposte. Allora un applauso. Basta. Allora io mi permetto di chiedervi, perché è stato uno degli autori forse più centrali nell'arco di questi anni di cui appunto il tabloid si occupa, di dedicare un applauso soprattutto a un autore che appunto non c'è più, ma di cui trovate qui due copertine, non a caso, proprio per la sua centralità, che è Alessandro Borgia. Purtroppo sta benissimo. Abbiamo corretto le bozze. Grazie ancora a tutti voi, grazie alla Fondazione.